Meno male che è giunto il Finelli, perché ci vuole un competente a parlare di queste materie dopo l'introduzione, si capisce. E tale non sono io, è colpa di Locusta che mi ha costretto a escogitare dei pensieri, e nella sua crudeltà ha detto il tema è socialismo utopistico, punto. E allora io mi sono lambiccato un pochino e ho pensato che forse non è male, quest'idea era una buona idea, chiedersi lo stato di salute di questo concetto, no? Spesso malmenato, partendo dagli scritti in cui questo insieme, molto sommariamente definito socialismo utopistico, viene sottoposto a critica e squadernato. Naturalmente quello che sto per dire è un ritaglio su un tema infinito, visto che avevamo tempo, ho preferito sfogliarmi da capo la voce socialismo dell'Enciclopedia Italiana, opera fondamentale come tutti sappiamo, che per fortuna è accessibile, firmata da Rodolfo Mondolfo, volume 31 di quest'opera gentiliana importantissima, anno 1936, che giustamente comincia con Teopompo, Falea di Calcedone, il socialismo nel mondo antico, Giambulo, i cultori del sole, per arrivare piano piano ai bravi utopisti, dei quali egli parla quasi parafrasando il terzo capitolo del manifesto di Marx e di Engels. Quindi nell'Enciclopedia Italiana, anno di grazia 1936, c'è un inserto cospicuo di distillato marxista ortodosso che ognuno di noi è invitato a leggere e ad assaporare, a gustare, a riprova di che opera complicata sia l'Enciclopedia Italiana. Orbene, intanto procederò per sintesi rapide. Mi pare giusto ricordare un paio di cose stilistiche. Io poi mi occupo di testi, io non sono un pensatore per nulla, ma ammiro moltissimo i pensatori. E lo stile di questo aureo libello, quando si parla degli altri socialisti, è sprezzante, tagliente, efficacissimo. Fra l'altro questi due giovanotti, perché avevano meno di 30 anni quando lo scrissero, Mazzini era già un signore molto più anziano, era nato nel 1804, questi erano nati nel 18, e quindi nel 48, anzi 47. Il vecchio asino. Il vecchio, per forza, era il grande esule, loro erano dei bravi studenti di filosofia ed altro. Si coglie subito questa maniera di scrivere da letterati micidiali. Per crearsi delle simpatie l'aristocrazia doveva far mostra di non tener conto dei suoi interessi, sta parlando del socialismo reazionario come lui lo chiama, e di formulare il proprio atto d'accusa contro la borghesia nel solo interesse della classe operaia sfruttata. Si procurava così la soddisfazione di intonare canti ingiuriosi ai suoi nuovi padroni e sussurrare loro nell'orecchio profezie di sventura. Grande scrittore, questo, entrambi, ma credo che poi la penna di Marx sia prevalente, come è stato più volte detto. Gli altri, che magari erano anche più anziani, poi oltretutto avevano già scritto, loro li aggrediscono, ma quelli avevano già scritto, avevano uno stile diverso, uno stile più da letterati, e loro hanno contribuito a presentarli sempre più come dei letterati, sottinteso falliti. Ma il povero Proudhon in realtà era anche un economista, non era soltanto un filosofo così per di giorno. Ad ogni modo, il risultato di metterli in una luce denigratoria, che li descrive come appartenenti a un passato ormai superato, è riuscita, l'operazione è riuscita perfettamente. Una seconda piccolissima premessa, anch'essa magari un po' più specifica. Alcuni ricordano certamente che in anni ormai remotissimi, appartenenti al Pleistocene, un uomo che ormai dimenticatissimo, che si chiamava Marcuse, ebbe un pensiero che gli parve estremamente brillante, e cioè incitare a capovolgere la cronologia insita in questo libro famosissimo, L'evoluzione del socialismo dall'utopia alla scienza, che in realtà sono i primi tre capitoli dell'anti-Turing, dicendo è arrivato il momento di fare marcia in senso contrario, verso l'utopia. Lo scriveva in un momento in cui questo suscitava applausi e successo, e quindi gli andò bene. In realtà, ora nulla togliamo alla statura di quest'uomo, questo va da sé, però ogni tanto la critica è necessaria. Era un'impostazione un po' singolare, direi abbastanza demagogica, perché buona parte di coloro che cadono sotto la definizione di socialisti utopisti e quindi maltrattati a dovere dai due trentenni di cui abbiamo già detto, non erano affatto dei sognatori, erano magari rimproverati di tutt'altro, di essere dei gradualisti, degli accomodanti, quindi tutto fuorché l'utopia, per cui non si capisce bene Marcuse cosa pensasse quando diceva cambiamo rotta e invertiamo l'ordine di questo libro. Ma comunque, il fine era polemico e si capisce perché lo ha adottato, lo ha perseguito. Si potrebbe dire un'altra cosa, che cioè coloro i quali si sono posti come fondatori di un socialismo scientifico, usando questa parola con orgoglio, erano troppo grandi per essere soltanto dei dottori scolastici, per cui l'utopia serpeggia nei loro scritti da tutte le parti ed è forse una linfa che ha reso durevoli, almeno in parte, i loro scritti. Non dico cosa nuova, ricordando che almeno due pilastri, il superamento della divisione del lavoro e l'estinzione dello Stato, se non si possono definire utopia, non so come si possono definire. Altri sinonimi si possono trovare, ma il concetto alla fine è quello. Ed è quindi giusto riconoscere che anche i realisti più realisti, e Locusta l'ha detto prima, hanno optato per il realismo, se non sono semplicemente dei notai dell'esistente, hanno dentro di sé la carica utopistica, altrimenti farebbero un altro mestiere. E sono quindi pronti alle sconfitte che immancabilmente aspettano al varco gli utopisti. Direi di più che in Engels, che aveva più tempo libero, sicuramente essendo un uomo benestante, il ritornante interesse per il cosiddetto comunismo primitivo sta a significare che la sua idea di socialismo, sia pure in quel caso a carattere mitizzante, non era molto lontana da quella dei spregiatissimi utopisti. Quel suo interesse, per esempio, sia nell'Origine della famiglia, sia nell'appendice intitolata La marca, che lui mette in coda al volume cavato dall'anti-Turing, per il punto di partenza della storia umana, che sarebbe quell'epoca d'oro, no? La chiamavano gli antichi greci, no? L'età dell'oro, in cui non c'era la proprietà, non c'era la divisione, non c'era la lotta fratricida. E questo idoleggiamento che lui cava dalla lettura di Morgan e da altre letture più o meno indigeste che ha fatto, sta a significare che sotto sotto egli ha un'idea poi ciclica della storia. Paradosso per uno storicista, perché la storia umana comincia con questo momento aureo da cui deriva una caduta, poi attraverso tutte le varie fasi che sappiamo variamente descritte, spesso in modo non proprio coerentissimo, e marcia verso un anello, uno stadio che rassomiglia a quello di partenza. Quello d'arrivo non l'abbiamo ancora visto, quello di partenza è così remoto che non è attestato da fonti scritte, quindi siamo rovinati. Lui lo sapeva questo, perché nell'edizione dell'88, 40 anni dopo, del manifesto, ormai Marx è morto, quindi lui può fare tutto quello che vuole in sostanza, mette una nuova prefazione in cui spiega un sacco di cose interessanti, perché abbiamo scelto la parola comunista anziché socialista, eccetera. E poi mette delle note ai vari capitoli completandoli. Ed è curioso, nel primo capitolo, dove c'è quello schizzo un po' confuso, no? Famosissimo peraltro, degli stadi della storia universale, io ogni tanto me lo rileggo sempre rabbrividendo, perché è difficile trovare un ordine in queste: liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, senza capo né coda, perché patrizi e plebei non sono classi sociali, c'è la nobilitas plebeia, per dire, dopo le leggi licinesesti, quindi perché i plebei sarebbero sullo stesso piano che gli schiavi rispetto ai liberi non si capisce. Ma in questa magnifica maniera di intraprendere lo schizzo della storia umana, Engels poi aggiunge: non c'è tradizione scritta sulla fase precedente, purtroppo, ma c'è stata una fase precedente, che era quella appunto utopistica, però non tale se effettivamente esisteva. Curiosamente lui non si è mai accorto, credo, nonostante la cultura enorme questi avevano, classicistica in particolare, come si è visto ora dal bravo Prometeo, tanto caro a Marx, del fatto che il più grande poeta romano, diceva Mommsen, cioè Lucrezio, che pure Marx aveva indirettamente frequentato quando si occupava di Epicuro, di Epicuro e Democrito, nel libro quinto del De Rerum Natura traccia in sostanza, nella parte finale di questo libro lunghissimo, un profilo che rassomiglia all'origine della famiglia e alla proprietà privata dello Stato, identico. Ed era una fonte scritta, sia pure nel tempo di Cesare, quindi un po' lontana dai fatti narrati, però era una tradizione scritta. Entriamo nel merito, insomma, un po' più vicini al tema. Io credo, ma dico cosa assolutamente ovvia, che non sia saggio usare il concetto di socialismo utopistico come unico contenitore di tante cose, fra loro diverse. D'altra parte, se questo termine è dovuto più che altro al titolo del famoso libricino engelsiano che racchiude i capitoli 1, 2 e 3 dell'anti-Turing e ne fa questa specie di breviario, non è altrettanto vero per il manifesto, perché nel manifesto tutta questa trattazione analitica e molto, molto polemica non si intitola, cioè si intitola Letteratura socialista e comunista, quindi è una trattazione bibliografica, si potrebbe dire, giustamente neutra nella titolatura e poi suddivisa in categorie. Noi invece continuiamo a usare questo concetto, anche il locusta l'ha usato, se vogliamo, e quindi è giusto redarguirlo. Ma è il titolo della Marx? Esatto, ma studio di un utopista è un concetto, un contenitore troppo grande, fino a non significare nulla. Perché? A rigore potremmo citare Engels medesimo, che era un uomo molto preciso, in due scritti, fra loro lontani nel tempo. Il primo è un lavoro in certo senso preparatorio del manifesto, cioè i famosi principi del comunismo, che ha un andamento molto catechistico, paragrafo 1, cos'è il comunismo, risposta, eccetera. Ma d'altra parte anche i catechismi sono un pezzo di storia. Poi abbandona presto quel tono e diventa molto più ragionativo. Arriva al paragrafo 24 e dice: i cosiddetti socialisti, espressione molto simpatica, si dividono in tre classi. La prima consiste di seguaci della società feudale e patriarcale che è stata distrutta dalla società borghese. La seconda consiste di seguaci della società attuale, e fa dell'ironia naturalmente, perché cosa vuol dire? Nei quali seguaci i mali che ne provengono dalla società attuale così com'è, hanno destato timori. Essi tendono dunque a conservare la società attuale ma a eliminare i mali ad essa connessi. Quindi riesce a dire il peggio possibile di persone bene intenzionate, se vogliamo, no? E comunque sono altra cosa dai feudali, ai quali destina sarà Carlyle, sarà proprio le persone più lontane dalla loro mentalità. La terza classe, sempre di questi cosiddetti socialisti, consiste di socialisti democratici, i quali vogliono, sulla strada stessa dei comunisti, una parte delle misure da noi indicate al paragrafo 18. Ma io non vi nascondo il contenuto del paragrafo 18, altrimenti sarebbe misteriosa questa formula, che è un paragrafo abbastanza pretenzioso, secondo me, perché le richieste che questo paragrafo contiene sono: limitazione della proprietà, forte imposta di successione, espropriazione delle proprietà fondiarie, confisca dei beni degli emigrati, cioè di coloro che scapperebbero con i loro capitali non appena arriva un governo poco amato, accentramento del credito, eccetera, eccetera. Quindi una serie di misure robuste che oggi farebbero impazzire anche il PD, penso io, ma non come misure di transizione al comunismo. Questa è la colpa di questi signori, no? Che sono socialisti democratici, vogliono un sacco di cose sagge, ma anch'essi peccatori, non come misure di transizione al comunismo, bensì come misure sufficienti ad abolire la miseria, che non è una cosa da poco poi come obiettivo, è una cosa abbastanza impegnativa. Però poi, in uno scatto di generosità, lui dice: i comunisti devono raggiungere un'intesa con questi qua, che è un po' il pensierino che si trova nell'ultimo capitolo del manifesto, dove Marx e Engels si spiegano come ci dobbiamo comportare con gli altri partiti, con quelli va bene, con quelli meno bene, eccetera. I socialisti democratici vengono individuati come compagni di strada degni. 40 anni dopo, lui fa, come ho detto, una nuova presentazione al manifesto, e spiega tante cose, fra cui il fatto che decisero di chiamarlo manifesto del Partito Comunista o dei comunisti. Qui lui dice che la parola socialista era molto screditata e alludeva a gente che frequentava i salotti facendo fremere le signore, più o meno, non più di tanto. Nel 1947, dice, con la parola socialisti si intendevano due generi di persone, curioso, non più tre ma due. Da una parte i seguaci dei vari sistemi utopistici, specie gli owenisti in Inghilterra e i furieristi in Francia. Dall'altra parte, quindi fa un taglio radicalissimo perché lascia fuori un sacco di gente, ovviamente. Dall'altra parte i vari ciarlatani sociali che volevano con le loro panacee guarire i mali della società. Ciarlatani sociali. In entrambi i casi gente fuori del movimento operaio, quindi molto drastico, molto... Insomma, anche egli nel volumetto, nell'opuscolo sui principi del comunismo è piuttosto vicino alla trattazione che si trova in manifesto. Ripensando quella vicenda, ma anche amareggiato ovviamente dagli insuccessi, dalle delusioni, eccetera, è totalmente negativo, in totale disistima e svalutazione di questo orientamento, come si evince appunto da quella seconda citazione che ho fatto. Terzo punto, davvero non voglio togliere tempo, che a me pare primario tutto sommato, ma forse per il tipo di lavoro che io generalmente faccio. Quando fu scritto esattamente il manifesto? No, non è una domanda totalmente inutile. È un tema che è stato studiato variamente, è stato inquadrato più volte, tutti ricordano ovviamente la prefazione dottissima, anche se l'autrice poi la presentava come popolare, della signora Cantimori, Emma. Che è un classico, quando io ero un giovanotto in audio aveva pubblicato per la prima volta, questo mi veniva a mettere subito tra mano ed era una lettura difficile, mi ricordo benissimo che non era facile. Poi è stato ristampato tante volte, libro stupendo, veramente un commento mirabile. Non è grave, è la modernità appunto, è quella. Quando fu scritto? C'è un cenno della autrice nella lunga prefazione in cui si pone ovviamente il problema: perché manifesto? E dice: il manifesto degli uguali, Babeuf, modello remoto. Poi un po' sommariamente: da allora in poi i manifesti si erano moltiplicati cambiando leggermente carattere, cioè allontanandosi sempre più dal carattere di proclamazione di principi all'inizio di un'azione pratica o insurrezionale, per assumere il carattere di esposizione di principi politici generali. E a questo punto arriva il manifesto di Marx e di Engels. La storia è un po' più complicata di così. Noi abbiamo delle, non tutte, insomma, parecchie lettere che i due si scambiavano, e quella del 23 novembre 1847 dice in maniera abbastanza rapida, purtroppo non è mai possibile avere delle fonti complete, pensa un po' alla professione di fede. Io credo, questo è 23 novembre, che facciamo la cosa migliore se abbandoniamo la forma di catechismo e intitoliamo la cosa Manifesto Comunista. Quindi abbiamo una data precisa, stanno lavorando a scrivere questo opuscolo e siamo nel novembre del 47. Poco prima, una diecina direi sì di giorni prima, c'è una lettera sempre di Engels da Parigi a Marx, che in quel momento è a Londra. Avrai letto nel nord, ci sono suoni singolari nei vari tempi, questo è sempre la modernità. No, ma nella varietà. Perché ci sono le voci sintetizzate. Adesso. Ho capito. Suoni. La democrazia del futuro, un unico voto. Avrai letto nel Northern Star, che è un periodico importantissimo dei cartisti, del 2 ottobre, l'invito di Arney e dei Fraternals ad un congresso democratico. Appoggialo, io lo appoggerò presso i francesi, eccetera. Perché vi ho ricordato questa frase che si trova all'interno di questa lettera, perché nell'ambiente ruotante intorno a questo periodico Northern Star i manifesti si moltiplicano. I lavori che ha fatto negli ultimi anni, da parecchi anni a questa parte, uno studioso italiano molto serio e molto attivo, anche se longevo, come Salvo Mastellone, hanno ricostruito bene il contesto in cui appare a un certo punto questo libro, quasi sotto la spinta della proliferazione di appelli scritti simili, rispetto ai quali non si vuole assolutamente rimanere indietro, no? Non si vuole, come dire, lasciare il primato, la scena, a altre forze che sia in Francia, sia soprattutto a Londra, in Inghilterra, dove Marx si trova in quel momento, sono determinanti. La cronologia non si può precisare ad unguem, però è abbastanza evidente che ai primi di gennaio al massimo del 48 questo libro esiste. Doveva uscire direttamente in inglese, invece esce in tedesco e praticamente ha un'efficacia modestissima, perché non è la lingua più facile del mondo. Poi è stata fatta anche dalla gloriosa Diz Verlag la ristampa anastatica, no, che forse avete qui, addirittura forse avrete l'originale qui dentro, no, con l'autografo di... come della Bibbia di Gutenberg. No, è vero, no, della Bibbia di Gutenberg. Bibbia di Gutenberg esistono più di 5. No, assolutamente. No. Museo di Magonza, questo sì. Lo posso testimoniare. Esatto, ma il fatto che sia uscita in quei caratteri gotici, in economia di carta, per cui in una pagina c'è un intero Corriere della Sera, praticamente, ha reso tutt'altro che facile, accessibile, gradevole. Alle lepri marzoline. Esatto. Ora, un concetto che si è, se vogliamo, per ovvie ragioni di schieramento, di riflessione appassionata, affermato, è che il manifesto è, non dico il detonatore, ma è l'anticamera della rivoluzione francese di febbraio. Ed è, sì, dico bene, del febbraio 48. E anche di quella di giugno, che è a carattere socialista. Niente di più inesatto, naturalmente, perché a Parigi non è arrivata neanche una copia, di quelle, assolutamente. E semmai si dovrebbe dire che il movimento insurrezionale parigino, nella sua prima e nella sua seconda fase, è frutto di tantissimi fattori, compreso l'intenso lavoro pubblicistico degli spregiatissimi utopisti, cioè di quella letteratura francese socialistica che prolifera e fa da contorno, da contesto, da alimento, da ispirazione di quei due capitali eventi che sono poi il detonatore di tutte le altre rivoluzioni europee del 48. Tanto svincolati dalla realtà concreta sono i nostri due bravissimi a me particolarmente cari giovani studiosi, trentenni, che loro continuano a prevedere che la rivoluzione scoppierà in Germania. La famosa pagina conclusiva di questo libro straordinario, la posizione dei comunisti rispetto agli altri partiti. Alla Germania, questa è la penultima pagina, i comunisti rivolgono la loro speciale attenzione, perché la Germania è alla vigilia di una rivoluzione borghese e perché essa attuerà questo sovvertimento in condizioni più progredite della civiltà europea e con un proletariato di gran lunga più sviluppato rispetto all'Inghilterra del secolo XVII o alla Francia del secolo XVIII. La rivoluzione borghese tedesca non può essere quindi che l'immediato preludio di una rivoluzione proletaria. Quindi questi sono convinti che domani e dopodomani la rivoluzione proletaria in Germania, che è in condizioni la più progredite possibile, visione assolutamente da visionari rispetto a quello che è effettivamente accaduto. E la Francia è completamente assente da questo scenario, sebbene poi le cose siano andate in quell'altro modo. Le previsioni sbagliate sono quasi un diritto degli studiosi, degli storici, un po' meno dei politici veramente, però anche loro inevitabilmente. Tucidide diceva che Temistocle era capace di prevedere quello che doveva succedere, no? Perciò gli fa un monumento. Guarda, Temistocle ne nasce uno ogni tanto, e i Castes. Non in Italia. Aristos, no, infatti era un ateniese, bravo. Ora, perché mi sono soffermato su questo? Perché se uno ha l'intento di ricostruire storicamente l'affiorare di, tra tanti altri di questo importante testo, ma che è diventato importante molto dopo, nella prefazione qui introdotta, ma che è un vecchio articolo di Hobsbawm nel 150°, lui dice giustamente, ma se andiamo a vedere le tirature, è soltanto col 1917 che questo libro diventa pervasivo. Prima continua a campicchiare dentro riedizioni in cui uno fa, Engels aggiunge qualche cosa e fatica ad imporsi. Se prendiamo ancora un libro degli anni 30, molto bello, di Paul Louis, che fra l'altro era socialista unitario, fiancheggiatore del PCF fino a Vichy, poi si ritirò a vita privata, Histoire du socialisme en France, che voi avete certamente qui in tutte le edizioni, suppongo, bellissimo libro. Il quadro del socialismo francese, che è punteggiato per lui da Babeuf fino al Fronte Popolare incluso, l'ultimo capitolo riguarda per l'appunto l'appena avvenuta vittoria del Fronte Popolare del 1936, è chiaro che un posto ce l'hanno anche Marx, eccetera. Uno tra tanti, perché c'è una storia francese del socialismo che è il fondamento della storia politica del socialismo francese. Cambiamento di prospettiva che è salutare per lo storico, naturalmente, il quale non si limita a dare il chiaroscuro, è vero che sarebbe molto comodo, ma ha il dovere di rimettere coi piedi per terra i dati su cui puoi riflettere. Perché dico questo? Ma poi mi avvio rapidamente a finire, perché non voglio infliggermi tutte le cartuccelle che avevo portato meco. Perché oggi sarebbe piuttosto facile, un po' l'ho fatto anch'io, credo, quando citavo quelle frasi di Engels sulle tre classi di socialisti, fare un ragionamento, alla fin delle fini, banale. Fermo restando che, messi da canto i cosiddetti socialisti feudali, eccetera, su cui si sfogano facilmente e polemicamente i nostri autori, in un bilancio inevitabilmente limitato nel tempo, si dovrebbe poter dire forse l'esatto contrario, cioè che questi movimenti pratici o ideali che venivano bollati come, con sarcasmo, intenzionati a difendere la società esistente perché la volevano migliorare, sono diventati nel nostro presente l'orizzonte massimo cui aspirare. E non per scherzarci su, perché sono temi molto seri, mi viene da leggere qualche frase da un altro celeberrimo articolo polemicissimo di Marx contro il povero Girardin, no? Il socialismo e l'imposta, cioè le tasse, in cui con un certo imbarazzo uno nota che la riforma delle imposte è l'idea fissa della borghesia radicale. Cioè la giustizia fiscale è un obiettivo ridicolo di questi signori che vogliono puntellare l'ordine esistente. Io credo che naturalmente che noi oggi, in quanto soggetti politici, sentiamo il problema in termini diversi, perché ci rendiamo conto che il fiume della storia è andato in un modo tale per cui quel che qui veniva presentato come dopodomani in Germania è davvero l'utopia. Grazie. Bene, adesso siamo ansiosi di sentire il professor Finelli, che, a cui dobbiamo una delle letture più interessanti e più innovative appunto di Marx, al di là dei frammenti, al di là delle segmentazioni, e a lui veramente dobbiamo una ricostruzione molto compatta e coerente di un percorso intellettuale e politico di grande interesse per noi. Io ringrazio dell'invito, mi scuso per il ritardo, ma stavo facendo esami. Vorrei dire, come dichiarazione programmatica iniziale di fondo, che io credo che Marx sia lo scienziato per eccellenza della modernità e anche della postmodernità, e credo che Marx e Freud siano i due eroi eponimi del moderno e del postmoderno, eroi eponimi come gli eroi appunto che danno il nome. Perché credo non si possa comprendere nulla del mondo moderno e del mondo postmoderno se non a partire da Marx e da Freud. Ma questa affermazione della valorizzazione forte di Marx come scienziato, a mio avviso, è legata e si confina nel Marx scienziato del Capitale. Scienza che entra in contraddizione con l'antropologia di Marx, con la visione dell'uomo di Marx e con la costruzione della storia che Marx ha edificato su questa concezione dell'essere umano prima del Capitale, che a mio avviso è del tutto caduca, assolutamente da lasciar cadere, perché ha causato danni fortissimi a tutta la storia del movimento operaio e a tutta la storia del Novecento. Dunque, valorizzazione del Capitale e svalorizzazione dell'antropologia marxista, e proverò a fare riferimento al Manifesto, che pure rimane questo ovviamente testo fondamentale di enorme valore simbolico, per provare insomma a far evidenziare come a mio avviso appunto già nel Manifesto ci sia la presenza di questa antropologia regressiva. Una antropologia troppo facilmente comunitaria, una antropologia troppo facilmente fusionale, in cui l'altro non costituisce mai termine di differenza, di opposizione, di conflitto, di problema, ma è sempre termine di integrazione collettiva dell'uno, nella composizione appunto collettiva della classe e soprattutto dell'uomo lavoratore. E del resto si diceva giustamente appunto questo eccesso di storicismo nella visione del marxismo, questo eccesso di storicismo per cui si dice che l'essere umano è tutto storia, come dice la sesta tesi su Feuerbach, l'essenza dell'essere umano è nei rapporti sociali. Questa affermazione pure significativa a suo tempo è un'affermazione estremamente univoca e limitante che verosimilmente spiega perché oggi, almeno in filosofia, ma io credo nella maggior parte delle scienze umane, ci sia l'egemonia dei pensatori dell'irrazionale, ci sia l'egemonia dei pensatori della differenza, dei pensatori dell'alterità, del mito dell'alterità, dei pensatori appunto del pensiero debole, perché a partire, diciamo, da una identità marxista originariamente troppo forte e dogmatica, che ha lasciato fuori di sé tutto l'esistenziale umano. Cioè ha lasciato fuori di sé tutta quella problematica dell'essere umano che nasce, che muore, che s'angoscia, che soffre, che entra in una dinamica di riconoscimento problematico con l'altro e con parti di sé, che invece è stata svolta, come sappiamo, nella storia della filosofia a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche sono i pensatori cosiddetti dell'irrazionale, che un libro bruttissimo di Lukács, che si chiamava La distruzione della ragione, sintetizzava appunto come appunto silloge dell'irrazionalismo. Io credo appunto che ci sia una profonda ragione storica nel fatto che dopo Marx siano venuti quei pensatori e che oggi il pensiero filosofico, che non sia di carattere analitico americano, è fondamentalmente un pensiero, io dico, dell'irrazionale. Ma per tornare al manifesto, il manifesto, nella bellezza della sua prosa, nella intensità della sua passione, nelle cose giustissime che diceva Canfora da un punto di vista storico, però a mio avviso è, come dire, profondamente legato nella sostanza alla dialettica hegeliana di signore e servo. È noto che Hegel tratta di questo rapporto come un rapporto di capovolgimento e di opposizione in pagine celebri di un'opera che si chiama La fenomenologia dello spirito, e nelle quali appunto descrive in modo molto profondo il modo in cui il servo, per tutta una serie di circostanze, riesce a capovolgere la sua posizione di servo e a diventare padrone, e il padrone diventa servo del servo. Ora, a me sembra che nel manifesto del Partito Comunista ci sia depositata, diciamo, una dialettica di servo e padrone fondata fondamentalmente sulla neutralità e la positività dello sviluppo delle forze produttive. La tecnica è il filo rosso della storia, lo sviluppo delle forze produttive sono il filo rosso della storia, la storia si spezza solo nel momento in cui lo sviluppo delle forze produttive entra in contraddizione con i rapporti di produzione di volta in volta, per saltare poi ulteriormente a rapporti di produzione più fecondi e forze produttive ancora più sviluppate. Insomma, a me sembra che nella tesi, appunto, per cui gli espropriati necessariamente esproprieranno gli espropriatori, e quindi nel fatto appunto che i servi diventeranno padroni, nella ineluttabilità del comunismo a partire dalla positività dello sviluppo delle forze produttive, che non possono più essere contenute nei rapporti di proprietà e di distribuzione borghesi, ci sia appunto una concezione fondamentalmente neutrale e illuministica della scienza e della tecnica. E questo è un altro aspetto regressivo e negativo dell'antropologia di Marx, di quel Marx. Insomma, come dire, c'è questo primo Marx che risolve l'intera esistenza umana non solo nella storia, ma la risolve addirittura e unicamente nella prassi lavorativa, perché già Hegel, almeno risolvendo l'essere umano nella storia, aveva presentato un'antropologia, io credo, più ricca di quella marxiana, perché appunto Hegel pone molti problemi del rapporto tra emozioni, bisogni e alterità. Per Hegel il problema fondamentale della soggettività, certo Hegel costruisce un sistema alla fine del quale c'è l'autotrasparenza, ma prima di arrivare alla fine del sistema, ma quanta ricchezza di analisi storiche, antropologiche, culturali svolge Hegel, a partire dal fatto fondamentale che contro Kant dice che l'identità e la soggettività di ciascuno di noi non sta nell'io penso, ma sta nel riconoscimento o nel disconoscimento degli altri, e che quindi la nostra identità è una identità profondamente relazionale, relazionale nell'assenso e nel dissenso, nel riconoscimento e nel disconoscimento. Il Marx del Manifesto, il Marx dei manoscritti economico-filosofici del 44 è lontanissimo da una problematica di questo genere, profondamente influenzato, io credo, dall'antropologia di Feuerbach, svolge paradossalmente, mi permetto di dire, un'antropologia non materialistica, bensì spiritualistica. E quindi, diciamo, la mia lettura provocatoria è che il marxismo viva di questa contraddizione tra una scienza del capitale e una antropologia di carattere spiritualistico e fusionale. Perché è troppo facile parlare di sviluppo delle forze produttive come filo rosso continuo dell'evoluzione del progresso storico. Qui Marx si iscrive perfettamente nella dimensione dell'illuminismo e nel mito del progresso, e da questo punto di vista è critico, ma non è lontano da Sismondi e da Saint-Simon. Ma vedremo, sarà molto lontano da Fourier, che è un pensatore che forse oggi pone grossi problemi nella sua possibile rivalutazione e rilettura, nelle pagine bellissime che Fourier scrive sulla tecnica. Ma questa, diciamo, visione troppo facile, come è stato detto da molti, di filosofia della storia, del primo Marx, del Marx prima del Capitale, per cui il soggetto della storia è fondamentalmente l'homo faber, è l'uomo produttore, è l'uomo lavoratore, che patisce ovviamente per la divisione in classi, l'espropriazione dei suoi prodotti e della sua ricchezza produttiva. Ma la storia è fatta fondamentalmente sul fondamento di questo homo faber, che è un uomo comunitario e collettivo, in quanto homo faber, di una collettività che non tollera dissidi e disgregazioni possibili dentro di sé, a partire appunto dalla valenza, in filosofia si direbbe ontologica, cioè fondante, del lavoro che accomuna. Ecco, questa mi sembra una visione appunto molto limitata dell'essere umano e dell'attività lavorativa. Ma il discorso fortunatamente in Marx si complica. Si complica proprio, io credo, a partire da una diversione profondissima che Marx compie sul concetto di tecnica. Ormai sono stati pubblicati tutti gli efte, gli estratti che Marx scrive e compone. Voi sapete che Marx compone un numero enorme di quaderni in cui, con la pazienza di un tedesco, riassumeva quasi tutte le opere che leggeva. Ci sono circa 350 quaderni a partire dal 43. E questi quaderni non sono solo di sintesi, perché spesso sono di commento, di commenti preziosi ovviamente. E a partire dal 1852, notate, dopo la sconfitta del 48, quindi dopo la sconfitta della rivoluzione e della possibilità che i produttori in qualche modo potessero diventare soggetti egemoni della storia, Marx, sappiamo, si mette a studiare come è capace lui, con questo studio pazzesco, devastante, geniale, in cui appunto non dorme notti su notti, insomma, schiavizza l'intera famiglia, gli amici, la moglie, in delle relazioni personali durissime. E però appunto la sua genialità voleva questo, e consuma molti anni, come sappiamo, nel British Museum a studiare molta storia economica, politica, ma in particolare studia la storia della tecnica e incontra soprattutto accanto a testi famosi come quello di Ur e di Technology inglesi, incontra la tecnologia tedesca, incontra in particolare l'opera di Beckmann. Ora faccio lo storico un attimo. E che cosa è la tecnologia? Solo in Germania esiste nella lingua tedesca la distinzione tra i due lemmi Technik e Technologie, mentre nelle altre lingue tecnica e tecnologia sono facilmente sovrapponibili, non hanno una distinzione profonda di significato. In Germania hanno una profonda differenza di significato, perché la tecnologia era una scienza, una disciplina universitaria che veniva insegnata nelle università tedesche tra la fine del 600 e tutto il 700, cioè durante il periodo del cosiddetto cameralismo. E che cos'era la tecnologia? La tecnologia è lo studio del modo in cui un processo di lavoro deve essere organizzato secondo l'obiettività delle scienze naturali, senza cioè la valorizzazione di nessun elemento umano, ma come se l'umano fosse una cosa tra cose, perché appunto la tecnologia doveva essere la scienza organizzativa di tutta l'industria che doveva garantire al principe un reddito elevato. Appunto, cameralismo è la scienza della camera, cioè della camera di consiglio, e il cameralismo è, diciamo, un grosso periodo della storia culturale tedesca. Ora, nel Capitale di Marx si intrecciano costantemente questi due termini, tecnica e tecnologia. La tecnica è qualcosa che rimanda all'Homo Faber, ed è la capacità dell'Homo Faber appunto di modificare e di lavorare il mondo. La tecnologia è la scienza del sistema forza lavoro macchina, studiato appunto nelle sue dimensioni oggettive, in cui non c'è la dimensione dell'Homo Faber, ma c'è la dimensione appunto di una forza lavoro che è parte di un sistema organico di produzione automatica. Tra l'altro va considerato che su questa distinzione semantica tra tecnica e tecnologia si giocano grosse cose, perché che la tecnica sia un qualcosa a disposizione del soggetto umano è la tesi di Weber. Max Weber, quando scrive Economia e Società, dice che l'età moderna è fondata sull'agire razionale rispetto allo scopo, e la tecnica è la capacità appunto di calcolare la coerenza tra mezzi e fini. E Heidegger riprenderà esattamente questa concezione weberiana di tecnica, con questa valenza soggettiva, per cui la tecnica è la potenza dell'Homo Faber, che, come sappiamo, poi per Heidegger si rovescia nel suo contrario, per cui l'Homo Faber diventa a sua volta oggetto della tecnica, e quindi parliamo tutti di tecnica. Non parliamo più di capitalismo, ma parliamo di tecnica. Come usano, a mio avviso, i pensatori dell'irrazionale e della differenza, che a un certo punto hanno cessato di pensare con Marx il moderno e hanno utilizzato Heidegger ed altri per leggere il moderno, proprio a partire, a mio avviso, da questa giustapposizione di tecnica e tecnologia. Nel Capitale, Marx forse non pone più l'Homo Faber al centro della storia, ma dice che soggetto della modernità è das Kapital, è il capitale, assunto verosimilmente come un soggetto di tendenziale universalizzazione, di cui l'Homo Faber è forza lavoro da studiarsi di volta in volta nei diversi passaggi tecnologici come elemento di un sistema che è forza lavoro macchina. Macchina che può essere fordista e macchina che può essere post-fordista. A proposito di tutti coloro che esaltano il lavoro immateriale, il lavoro informatico, come liberazione appunto in qualche modo dalla pesantezza del lavoro e dei rapporti di classe, appunto perché continuano, secondo me, a non vedere questa distinzione di tecnica e tecnologia e a non vedere che la forza lavoro non è l'uomo, ma è un elemento sistemico all'interno di un rapporto di produzione. E dunque, per concludere, io credo che, e mi scuso di parlare proprio en tranchant, insomma, in modo molto schematico, io credo che l'opera di Marx, che è un'opera molto ricca, contraddittoria, composita, abbia esperito un autofraintendimento a partire proprio dal suo fondatore. Marx pensa tutta la sua opera e la giustifica epistemologicamente fino alla fine, sempre a partire dalla vecchia impostazione antropologica della sua filosofia della storia giovanile. E anche quando scrive Il Capitale, ripete costantemente questa sua concezione di filosofia della storia, a partire, ripeto, da una soggettività collettiva presupposta troppo facilmente come soggettività collettiva. Ma i grandi si autofraintendono. L'autofraintendimento, secondo me, caratterizza anche l'opera di Freud, il quale per tutta la vita ha voluto e ha preteso legittimare la psicoanalisi come scienza oggettiva, mentre fortunatamente la psicoanalisi è cosa ben altra dalla scienza. E di fronte a questo autofraintendimento di Marx, per cui certamente ancora in molte pagine del Capitale noi troviamo i discorsi del manifesto e la valorizzazione, ripeto, di questo facile homo faber collettivo e comune che spiega la necessità del comunismo e la ineluttabilità del comunismo, mi piace ricordare, data questa serata, molto rapidamente Fourier, questo singolarissimo pensatore, certamente utopico, che legge però moltissimo Rousseau, e legge il Rousseau non del contratto sociale, che è quello che legge Marx nel 1941, il Rousseau della libertà, ma il Rousseau dei sentimenti, il Rousseau della spontaneità educativa, il Rousseau della Nouvelle Héloïse, e elabora questo visionario, sapete, Fourier, il falastero, la organizzazione della città, appunto, ideale, secondo queste cose. Ma, come dice poi Benjamin, che lo cita nelle sue tesi sulla storia, Fourier pensa che esistano due tecniche. Una tecnica che naturalmente manipola e devasta la natura, che è quella dell'homo faber, perché la natura è questo serbatoio inesauribile di oggetti rispetto all'uomo soggetto, ed è la tecnica negativa per Fourier, è la tecnica prometeica. E invece una tecnica giocosa, tra virgolette, quindi forse anche qualche richiamo di Marcuse c'è stato su Fourier, una tecnica il cui scopo è quello di curare prima che la quantità dei prodotti, cioè la produttività, la qualità delle relazioni interpersonali dei soggetti che la gestiscono, e di operare sulla natura nel senso di aiutarla a partorire, perché la natura contiene delle potenzialità e delle creazioni così ricche e complesse che da sola non riesce a partorire. E la tecnica gioiosa del falastero dovrebbe essere capace, appunto, di valorizzare la natura come non un oggetto, ma come una soggettività che vive e che s'articola, appunto, nella sua pienezza. Ecco, questa era, diciamo, un riferimento all'utopia della tecnica.